fatto servizio per Mariaria, che su ha parlato lo spot. Cazzo mi ha paura roba in minchia. Ma no, cazzo, ragazzi di tutto e fari, di tutto. Lì ci scombatto un bel po' i soldi che siamo 80.000 lire o 70, boh. Prima era di zenta, poi sono fanati. Io sono stato anche a Roma, faccio in città. E la piazza della Vittoria. Io fuori no, no. Sardegna solo, Cagliari, Oristano, diciamo quasi tutti i teatri, dai, quasi tutti, a Alghero anche sono stato. Certo, anch'io un casino lì, dai. Ci parteggiava il camion, ma io la motocarro, caricavo la motocarro e portato là, a scaricare. Un casino in chi, mamma, lo spillo con fuoco, cazzo. Ciao Capo San Lorenzo, ui ui ui, guarda il guanto lontano quel posto. Come sta chiamata in commedia? Diciamo, che non me, va? Voi, chi ci mette in commedia? E dico che si vada per le commedie, però con chi eri, con Antonio? Che è Antonio? Antonio Cisto. No, lui non c'era. C'era Cosso, l'altro fratello. Non mi ricordo il nome, affanculo. Cioè, sono tre fratelli, mi sembra. Sì, ma come si fa Antonio Cisto? No, non è che mi pagano direttamente loro, quelli proprio del teatro. Capito? Quelli lì che mi pagavano. Proprio quello che comandava. Mi chiamava, firmava me aveva tutti. No, ho capito, voi eravate a contratto così. Io subito ve le davano. Era finito il carico, là. Mica avevano scaricato e tirava su, e poi avevano caricato e tirava gli altri. Finito il carico, che partivamo per dire, adesso eravamo a Cagliari, per la provincia di Cagliari. Poi da lì a Oristano. Mi pagavano, a Cagliari mi pagavano. Poi a Oristano scaricavo, poi ricaricavo e ripagavano. E ce cioè, ne sono stati i soldi, ci ho fatto un bel Natale. Questo è 5 anni fa, 6 anni fa. Non so, una volta ci ho avuto un culo, Luca, ci ho avuto un culo bestiale. Allora era settimana. La prima settimana di agosto era, diciamo, prima o seconda settimana di agosto. Cagliari, serata a Cagliari. L'indomani a Olbia. L'indomani di nuovo a Cagliari, l'indomani ancora di nuovo a Olbia. Immagina via di giù. Noi abbiamo fatto Cagliari, Oristano, Nuoro. Poi da Nuoro siamo andati a... a Cagliari, poi da Cagliari. No, a Capo San Lorenzo. E dopo Muravera. Guarda come di qui finché, mamma mia. Che carriera vera. Poi da lì siamo andati a Olbia, a Zacchena siamo andati. Poi da Zacchena abbiamo fatto Alghero, da Alghero abbiamo fatto Sassari, a Sassari praticamente abbiamo terminato. Perché a Sassari si bloccava due giorni lì, mica piazzava e poi si montava in domani. Due giorni rimaneva lì, poi secondo andiamo a Napoli. Verso le 11:30, mezzanotte, non ho quanto, poi smontare tutto. Non devo ringare Silvio, per me non andava più anche perché ero uno zingaro, cioè che sbattuta da una parte all'altra. Non c'era più vita, non c'era. Eri sempre 24 ore su 24 con loro. Va bene che erano quei 4 mesi, però... Perché invece poi in qualche cosa d'inverno, dicembre, così, gennaio, poi le serate di Capodanno e di Natale. Però non ho visto la zingari. Ma tutta la zingari, basta bisogna di là. Poi ti organizzi per fare quello che devi fare. Nel senso di comprendoci, magari travagli, decidi, 20 e non ti davi, mi si criticano più, E la base magari no, ma dici davvero è la gamba, noi c'avevo un tavolo in albergo, tranne che quando si viaggiava che avevi questi lontani partivi, non c'era niente da fare. C'era dovevi scavalcare il mare, la camera sulla nave, cioè tutti la base, cose, però eri sempre in partenza, sempre in viaggio. Io qua in Sardegna, poi a quanto ho sentito io, dice che adesso si riportano direttamente da fuori, i facchinaggi, quelli che fanno facchinaggio e quelli che fanno aiutante elettricista e vale fare. Cazzo, non mi ricordo come cazzo si chiama, cosa fa Mario, ma è bravo anche, affanculo, c'ha un nome, non mi ricordo il nome, ma un nome questo corso che fa lui, non mi viene. E beh, Luca. Già. Sì, sì, Luigi Pusellelli, lui. Mi fai bene già, con uno è usato. Oh, stai tenendo tu. Sì, quasi che fai lì, con un frattino. Che uomo, no, perché nava ancora. Tu puoi solo, sei rientrato uomo. Ha poco navigato un panino. Ecco, un panino. E basta. Non ho già trovato. Ma non ne ho fame. Non dà poi fame. No, adesso fammi. Rientrando da Ita e Flora e quindi a Copano quando è guaria che si nasce ma si trova di qui compresi che cazzo è? Questo è Pier Paolo Antone Giovanni e Sabina Pedro Paolo Pedro Paolo mi intende se... non mi intende mi intende lì sicuramente c'ha per i disturbi ce l'ha detto un paio di giorni non so. A te la Giovanni, a Gianni, a Itti di Peppa. No, negativo. Che problemi non tengo, non ho capito perché. Infatti non posso attaccare una cosa perché fischia. Che fa? Sei un bel alternata, mi ha detto. Non so, c'ho problemi. Forse il capo, non lo so. No, l'intende, Giovanni. Non è mai più fatto altre volte, adesso è 2-3. Ho capito molto nel... Vabbè, il terreno non è ora, l'ho sentito, comunque buonasera a Pier Paolo. Lo sento. Lo sento, però non mi segnale di sempre. C'ha problema l'antenna. C'ha problema l'antenna. Non so quali, però... Tiene problema a antenna, scappato. Sì, no, ma che era già spiegato però, già detto che era... Poi è arrivato anche a così. Condizione un po' così strana a livello di trasmissione, capito? Cara, l'altra volta ne ha parlato. Iaiaia, gappa gappa. Vedi, oggi non se non me l'ha fatto quel problema là. Perché l'ha freddo a Parigi, che non l'ha fatto neanche una volta. Ma sai come me lo fa molte volte, io non so cambiare il canale. Sei alle vibrazioni, capisco lì. Cazzo, non so. E te lo spiegato, sei di dire che non ha così. Ci vuole un attimino di passione. Un attimino di passione che metti a posto, capisco. Perché a truppo è fuori, ma sanato. E Giovanni? Giovanni, poi lui vicino a Pier Paolo. Già, ci vuole pazienza con un rimbo. Ah, e c'è a fidere, Giovanni. Senti, che fa? Dove mi stanno a dire? Vai, già, ciao fa, prova a vedere. A me senti, buonasera Gianni, a esci. Cato a Giovanni, già. Aspetta, non ho sentito niente, nulla. Ma tu la intendi, Giova? Lo sento, sì. Sì, quel qua, lo sento. Ah, già lo sento chiaro, là. Sennò c'erano 5.000 watt adesso, Giova. Gianni. E dove sono? Sei scendere con 5.000 watt. Io? Sì. Io sto pensando, lo so. Sto pensando, va bene. Ok, non ho idea, ma comunque non so, non ho sentito niente. Mi intende, c'è la mia. Sì, buonasera. Buonasera. E un ecchesesi. A domo mia. Comente? A casa mia sono. Ma se non cosa ha detto lui? Si domo sua, in Tattari, a Latelucche. Ah, buon grande Lucecco, che mi confonde sempre d'aula. Fissato un secco, grazie, fissato. Che no, io non dico di non dire farlo tutto a tu, ma che sia comprensibile. Perché ti si va un po', ti si accavano le parole, non si capisce una mazza da mismo. Ah va, bene anda. Adesso va bene a tu. Cappa. Ah, io ti ascolto bene a te. S5 Radio 5. A me mi arrivi Santiago, sì. Sì, perfetto, capito. Perfetto, non c'è problema. Vabbè, hai sempre quella antenina, vero? Sì. Già mi ricordo. Ma ogni tanto esci con un'antenna più buona, vero? Frate mio, state negando. Vivi, canzone, suende la chiamava. Quella è su cui parla di dolore, è quello minimo. Ciao, buonasera. A dopo, alla prossima, ciao. Ciao, ci risentiamo alle prossime. Però io a Daniele gli arrivo. Gamma Gamma. Tu sei 6 di segnale. Luca, è Daniele quando arriva da te? Ah, nel Midland è 9.30. Qua nel WhatsApp di qua, fa un passaggio Daniele. Guarda un po', Daniele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25 qua. Da me è 9. Vabbè che lui purtroppo alcuni segnali non li sente perché è dentro, praticamente è dentro un coso, dentro un interno lui, però mamma mia, va bene, dai. Toglio da qua. Siamo uno nel senso, ma che cane ha detto? Sono te risposto Giovanni, ti sente. Perché quando arrivo io Giovanni, tu da te, guarda un po'. Ora. È più di 9, sei quasi 9.10. Ah, arrivo più alto di Daniele. Non ero 9 prima. Sì, c'è appena più di 9 la freccia. No, vabbè, Daniele mi arriva a 9, cioè più o meno ci avete gli stessi segnali, dai, che calpestate se parlate tutti e due insieme. Ah, dai, che su conto. Vabbè. Fate la prova fra te e Daniele che arriva qua. Vai, Daniele. Io provo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calpestate da me. Non è che non flippino, non buchi. A te passo per favore. Sì, passi, chiaro chiaro. No, vabbè, siete più vicini. Tanto burro, stacca, vedi. Va, staccato. Guarda quanto arriva adesso, vai Daniele. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sì, come non è male, Santiago 8 diciamo, perché la freccia va tra il 7 e l'8, dai, e va proprio lì vicino, è a metà, ma va abbastanza bene Daniele. Cava, cava. Ah, va bene, va bene. Voglio provare il 747 qua, se va bene, non morimmo, ogni tanto attacchiamo. Cos'è quel rumore, Luca? Quale rumore? Ho sentito qualche cosa, clic. Clic, tipo, quello voglio questo clic. Spiega, cosa vuol dire? C'ho le cuffie, mi sembrava uno scorreggio. L'ho fatto io? No, assolutamente. Hai toccato qualcosa, deve essere. Posso fare di peggio, ma lo scorreggio proprio no. Poi se non vai, tanti nomi, fino a che non arrivi. Ehi, vai, via, via, entra che arrivi. No, non arrivano. Qua arriva solo il tuono, il lampo. Giovanni. Sì, stavo chiedendo una sigaretta. Quanto arrivo da te io, guarda. 1, 2, 3, prova. 9.30 c'è un po' lo scala lì. Come 9.30? Cosa vuol dire? Ma a lei dice la baracchina. Hai letto tu? Il baracchino ce l'hai a letto o c'era lo smitter? Non è che gli altri 30, ma è che 9 su 30, non è che gli altri 20. Ha visto la piccia? Ha visto. Ma quanti letti c'hai? 4 blu. Cappa, andava. E invece la niente arriva a 7 russi, hai detto. K. Già va bene. Anda bene. Ma quando parla per Paolo non ti sento al baracchino, non lo senti male? No, io lo ascolto male. Vabbè, troppo vicini siete. Troppo vicini, non fa. Quando sei così vicini, già mi arriva male Franco e K. l'audio un po' di meno, quando attacca, perché siamo troppo vicini, capito? È quello, vicino il Dio, lui è un po' distante, ma è così, andava, andava. Vai Daniele, Daniele. Cava, cava, cos'è Lugariello? Un casino, sento solamente... Ah, voi tre! Se l'abbiamo dato la targa piccione, si antenna, guai. La pompa da lì, la guglia, stava buona, quella. Ehi, ehi, sempre la vela. Ci riusciamo a mettere uno di quei pali che non tolto, no? Ma è troppo sottile quel palo, non va bene. Quello va bene, per una tana... VU, quello sì. Ehi, è arrivato, guai. Perché era giusto il furgonetto lì, non te lo ricordi, non lo so, di sbieco. Ma di pari erano 4. 3 sono i pari. Sono 4. 4 a 3 metri. Sì. Cazzo, ma è per pa. Una volta siamo andati a smontare un'antenna, a tutti i vini il motivo siamo andati facilissimo. Cazzo. Vabbè. Non sembrava molto alta, insomma, così, e i tiranti erano fatti col fin di ferro, inizia a tagliare i tiranti e non si muove chi l'antenna, non ce la facevamo abbassarla, un casino, poi si è messo a piovere, va, disciplinato da Daniele. Canto me lo metto giù io. Tu sei sempre fortunato, sì. E poi è un'antenna piccola, sarà una tubista, un 2 kg, 3 kg di antenna. Il palo che pesa bombe. Allora cazzo ho dovuto prendere la scala, passare il primo palo. Un cazzo, abbiamo bastato il secondo, poi da lì ce l'abbiamo fatta. Infatti volevo chiamare i pompieri, era un casino, era. Perché lui ci dice, stiamo bene il giorno. E se è mettato il tonnellino, magari... ce l'abbiamo fatta la mia. Perché cazzo l'avevo fatto a Bulurio, cioè abbiamo impaccato l'antenna, è tanto fuale farlo, è tanto fuale, vabbè, comunque cazzo giorno mamma mia. Cazzo che casino, via recciante. Rimani sulla... c'era un cosa interrompe, un... non si chiama, un... ma... un piatto, non è che era... per modo di dire, fissato in terra, per modo di dire. Ma sono mai lì, Daniele, cazzo si vede la terra muovendo, non mi muovo, non mi e come avete fatto? Vedi, Daniele, se è arrivato via il Paolo, io qui la siamo in 40 Sant'Enna. Allo volo, culo. E ve lo sta duro, ma attessimi. E la tua palla è alto, dai. Ci ho riaggiungata. Buona ragione, ne abbiamo parlata. Magari quanti metri era per quel palo? Infatti il conto, minimo erano 4 pali, perché il primo era minimo 4 metri. Quello 4 metri. 4 più 9, 13 metri. E che antenna era di baracchino? No, altro, un'altra antenna, Dove lavoravo prima, l'antenna di quelle... di quelli che usavano quando facevano il corriere, facevano portatile, no? E loro trasmettevano dall'ufficio. Dove l'antenna lì? Gappa, gappa. E vabbè, no? Con antenne usi? Sì. No, capito. Luca! Oia! Ma ci avevate per il teatro anche quei tralicci, ci avevate per le luci? No, no, sta a mano la lì, qua. Legati a mano. Tutto a mano. e poi una volta che passavo nel file andavano le corde e via, no, le tralicci. Certo, proprio l'anticano. E invece noi ci avevamo le tralicci, lo sai che una volta erano due di quelli di pacchinaggio, di Porto Torres, mi hanno volato il traliccio da 12 metri da solo. Cazzo, quasi quasi ci finiamo sotto, sono riuscito a mantenerlo con la schiena, mi sono appoggiato sulla schiena e sono riuscito a fermarlo. Si parava da lì, cazzo, il suo traliccio, non so così ben presente che ha detto il traliccio dove la vedete. Però io gli ho dato una rito, tanto per lo sai sono riuscito a fermarlo. Se no, il giorno di giorno che l'avessi invitato un proietti. No, non ce l'ho presente, comunque, ti capisco. Sembra così, ma ti sbilancia, cazzo ti sbilancia. Cazzo, ma stai scherzando, sai quanto pesavo il traliccio? Nonostante fosse, non fosse di quelli, insomma, più moderno, il ferro di quello robusto. Ma tutto piazzato pesava 3 quintali e mezzo. Cazzo. Mi sono fatto anche male alla schiena, è la verità, però era meglio così che sono riuscito a fermarlo, invece no, erano stati cavoli da credere. Il cazzo da lì aveva pigliato un mio, non manco, parla di 15 persone. È un casino, no, lì la parlano in quella maniera, la maniera lì. Queste perché di legno, no, lunghe, e poi agganciate tutto. Agganciamo tutto quello che vuole agganciare, fari e balle varie. Cazzo, non mi viene il nome, porco buia. Che pensano le scene, come cazzo ci chiamano? Ma guarda, io so che ci chiamano scenografi, poi non lo so. No, hanno un altro nome. Ma che sei Zelli? Ah, Giovanni Leonardi. Ma cosa? Diciamo che c'è un altro nome per qua, cazzo. Noi ha un altro nome. Questa è nuova. Non lo so, guarda, io so che quelle che piazzano le scene si chiamano scenografie, poi non lo so, di teatro non mai intendo. E aspetta, non mi viene il nome, guarda. Non mi viene il nome. E io la verità stavo sperando che questa non mi chiamasse, invece nulla. Sempre periodo di Natale, mi. Cioè dal 10 dicembre, dai. 8 dicembre, 10 dicembre. Nunca alfa, nulla. Ok, da voi venire sul bipu faceva schifo anche. Ma cani muscio, liscio. Si voleva pure farsi bagarota, non mi ricordo chi è andato, comunque un paio di amici miei con lui e a quanto ho capito, cioè a quanto ho capito è vero, si è avuto pagato la benzina, l'usura gomme, l'usura olio e l'usura sedili. Addirittura, ma non è suo e la notte allora? Che macchina, diciamo come fa a viaggiare. Infatti un giorno è capitato che il canato umano mi buttava lì, poi dice fumavo troppo, non so che cosa, e mi fa, Giovanni non ti vuole perché dice che fumi, ma che non ci ho mai fumato la verità. Vabbè, di più, da oggi in poi io ce l'ho con te Mario. Tanto è capitato che c'era Mario e altri due con lui, e questo Giovanni con un altro, si chiama Giovanni questo qua, e mi fa, no, trovo appuntamento lì nella piazzetta vicino al bar e fa Luca devo andare con Giovanni, no io vado con te e fa tu due e due e uno un altro, lo siamo diviso la benzina di anni e anni in peso, invece io con questo tipo Mario eravamo in quattro perché noi c'eravamo già prima più io eravamo quattro e ci abbiamo diviso le spese, poca roba, dai, 20 euro a testa insieme, 30 euro a testa la benzina. Solo, cioè, solo la benzina ti chiedeva e basta. Perché le spese della benzina e di mangiare le cose, voi dovete pagare quanto? Beh. No, non è tutto pagato. stavano a capo che hanno un legno. Cioè, se partiva il camion prima e cosa, noi partivamo con la macchina, volevamo una macchina a noleggio, oppure a noleggio, aggiunta in Roma, un furgone più noi, capito? È stato pagato però. Ehi, ehi, no, noi no, negativo, nulla. Noi ci avevamo la cifra lì e ci accarraggiati. No, la vostra tipo era un bell'occhio, eh? Quando andavamo al mar con gli atturi anche, e io che ho fatto se tocca a pagare, anzi facevo, non so, un giro, no, con un caffè, chi voleva aranciata, chi voleva birra, e davanti ai zibili prendeva il caffè e si portava al bancone, e penso ma non paghi, e poi sei indiano così, e pagavano sempre noi, e pagavano diciamo una buccia mi pare. E ma l'avevo fatta bene fa parola, i primi anni approfittemmo, cazzo questo Mario, quanto c'è Mario? Tre pasti lui, quattro un altro, cazzo mi accorto, alla colazione mio via. Sai che mangiava di, cioè, che dormiva di macchina, cazzo, no, così non va bene, no? Così la peppa, se volevi risparmiare, se no andavi a dormire in albergo non ti avanzava nulla, ma che minimo vogliono 50 euro per andare in albergo, purtroppo era così, se volevi guadagnare era così, comunque eravamo puliti, pulitissimi, quindi diciamo, ci cambiavamo ogni santo giorno, noi ci venivamo sul romano, questa sera di mia leva, è stato tutto senza lavarsi. Chiamavami Ercabiccio. Cazzo di schifo, vabbè. Sai, noi avevamo anche una roba di credito, per esempio avevamo una cosa, come si chiama, una carta, una carta di credito, era lui la ricaricava, no? E avevamo un budget di spesa per il viaggio, per il benzina e tutto quanto. E avevamo quella lì come budget di spesa. Ogni volta che uscivamo in tournée in pratica. Sì, sì, ho capito, capito. No, noi no. No, non lasciamo i soldi lì e basta. E poi ci dovevi arrangiare. E i gatti vostri ci mandano due panini. No, via. Io prendevo due panini mortiti. Cazzo, spendevi lo stesso, non come spendi in ristorante, che molte volte è capitato andando in ristorante, non mangiando niente, spendendo una barca di soldi, una barca di soldi. Dicevano, cazzo, si chiuse dentro il uscì, ma eravi in 20, in 30, ma si curava, si chiuse dentro il uscì, non fa mangiare nulla. No, si può, no, no, non fa, come fai? Non ci ti mangi due panini, io prendo, quando capitavo due panini, un po' più di merendine. Mangiavo due panini, mi erano in uguale la sera, anche merendina. Ma c'è niente, andava a mangiare al ristorante. Tipo questo Mario, lui prendeva 300 miliardi al giorno, ce la poteva permettere. Beh, ma così anche, cioè le spese, non so come le hanno incontrate, ma le spese devono essere pagate, grazie. Fino ancora così, quando neanche se panini o che cosa devi spendere, però mi sembra assurdo. No, noi non c'era, addirittura delle volte c'erano gli organizzatori che erano già il conto pagato, oppure se non c'era noi andavamo al ristorante sempre e comunque, oppure se non ci andavano al ristorante, ma per cosa no, so, una pizzeria oppure un fast food, cioè se volevi cambiare non andare sempre al ristorante, però le spese, Iter, te lo diciamo in continente, allora a fare il tiro di Usciacara, poi mancava fissato dove era andato dal Marco. Ehi, ehi, poi c'è la neve qua, lo sta chiudendo, vai Daniele. Ehi, Alu, hai indovinato, no? È stato a Nanna. Ci ascoltiamo domani, dai. Ciao, ciao, buonanotte Daniele, a domani. Ciao Daniele, buonanotte e buona giornata per domani. Grazie, contraccambiate l'accento, dai. Ci sentiamo domani. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, Daniele, buonanotte, ci risentiamo tutte le prossimine. Ciao ragazzi, vai, a domani, ciao ciao, saluto di circolare a tutti. Oh Luca. Comunque Gaia c'è il suo conto, Beppa, dimmi. Sono sempre, ma è nato un problema. Questi giorni scorsi ci avevo tutta la mano nera nel braccio, lo sai chi oggi? Mi è passato l'altra mano, cioè ho in pratica i tendini delle due dita centrali, diciamo, tanto non mettervo più, cioè mi è passato da una mano all'altra, altra cosa ho avuto piacere che sia le fritte a volte o meno. Dici, ma se fatti controllare per parto, lo dicono subito. Sì, arrivato a questo punto mi sa che domani vado a farmi controllare, perché è male a me, lo sai, è male, ho paura che mi abbia preso qualche cosa alla muscolatura, capito, perché è una cosa, un bel frana. Anzi, adesso sono anche preoccupato perché da poco fa ho le dita completamente addormentate, non intendo più. Infatti va un controllo, Bianpa, poi lo riconosco subito. Così fai. Sono cose veramente brutte. Poi vabbè, ti voglio fare lui, che non sai cosa è, se mai è una cosa, non dico gravissima, ma insomma, dai, dovrei controllare domani, poi te lo diranno loro. Quella è la circolazione. Mi ha perdendo perché anche ho rilassato un po' la muscolatura e i tendini. Li ho rilassati un po' troppo in questo periodo, troppo a riposo. Pratica sono la guida, ho paura che mi abbia preso un bel male, perché è passata da una parte all'altra e a manca tra gli occhi due diti. Poi io gioco tutti la tangina e cosa, ma sono completamente addormentati. E mi fate un bel male la mano, mi si è gonfiato. La circolazione del sangue che non ripeto, voi fate controllare, è un altro giorno te lo vedo. Ascoltate, non è fase di circolazione, no, proprio i tendini, mi fanno male i tendini. Mi sento che di tirare le dita, non è circolazione, no. E allora una tendinite, con che sforzo che ha fatto potrebbe essere? La muscolatura se la rilassi si riposa, ma non succede quello, anzi ogni tanto fa bene rilassarsi. Fatti controllare, i medici sono, te lo posso dire cos'è. Sai, non la faccio, domani mattina carico la 20, la rimuovo la 25 e invece rimette a posto tutto. Sì. Tanti dove c'è caricare le bombole, vai e ti fai vedere. Sono è fuoco, che campagna mi prende di più. Cioè adesso sono veramente cadete, due dite, uno è poco, ma come che non ci siano. Io ti ho detto l'altro giorno, vai e fatti vedere, così almeno te lo dicevo direttamente, tu mi hai detto che era un tendine rotto. Il tendine era lo stesso, era il tendine, ma certo non è il tendine, e così questa qua. Non sono molto convinto, comunque, per dire dottore, là. Io mi auguro che non sia niente di grave, là. Sì, niente di grave, non c'era niente di grave, l'altra mano mette il passetto. Ecco, però non so come siete in quanti quattro mani a guidare. Non c'è sensibilità così. Niente, adesso in questo momento non c'ho più sensibilità, proprio zero. Non sento più le dita e mi faccio un bel male la mano. Grazie, Bruce Green, Pierpa, a Italia 1. La fai? No, non lo sto guardando, è un po' ricche. Peia, sì. Non sono una manera, come c'è? Peia, è lui, Cazzo, poco un culo, mamma, ma dai, ti lasci il film, La morte è piatto lui. Ultimo non quarto è iniziato, 20 minuti già, film, Dragon, la storia di Fucciolè. Ogni cavana, vedi? Come si chiama Fucciolè? Fucciolè. Bruce Lee, cosa mi dice lui? Bruce Lee, già lo so, ho letto come c'è scritto, no? Vabbè, là. Io vado a prendere la macchina a noleggio, me ne sto andando, dai. Come te ne va? Lo vedi? La macchina a noleggio. Sta bloccando si sta. Dove devi andare con la macchina a noleggio? In giro per stare. Fa culo, ma come si chiama la parola? zona che soffre, sono delle finte insomma. Ma che tu spinta roba vera quella? Cioè, ma che dice vaffanculo, aiutami tu. Che cosa? Non so cosa vuoi dire. Sono dei dinosauri, ci sono coccodrilli. Un film di fantascienza. Ma non è un film già. Ma non è un film. Documentario. Documentario, vaffanculo. Poi si chiama Frickstrom Park. Grazie Park. Come si chiama tu? Cazzo già, stasera proprio a pescare, ma era tutto male, è andato. Anzi, i primi due raggi mi si è staccato il colanello nel puntale. Ho dovuto recuperare e incollato. Rilancio la savuccia. Vabbè. Poi ho passato Tanara. Poi c'era Franco dietro di me. Lascia farsi un giro, Alessandro gli ha portato la canna alla pesca. Cantava di cui, si muove da me. Ma si è cantato la tutta la lassù e cazzo si è staccata. No, l'ho rilanciato, no. Portato la canna alla pesca indietro, lancio. E la cazzo la tutta la lassù, siccome adesso non c'è una lenza male, quella, diciamo, la 20, la pratica. E si è fatto dalla tutta la lassù e non ha male. Tutta la lassù, abbiamo col girella, non va a lungo. Comunque ne sto prendendo una milunga. Perché cosa? Sarà una festa, completa. Quanto l'ha poca roba, 40 euro. Che marca è? Daiwa. Daiwa? Tappa. Bisogna avere, ma lo sai, la lancio. No, io non so stare male. E c'è il nuovo. C'è buona. C'è buona, c'è buona. Ma servizio? Ma si dice che la mia potrà essere pure a tirare di ritorno così, si sa che non ha preso. Ti vuole un po' fumare, ti vuole. No, da te la che andava per sentire io. Ma siamo i più... siamo i più difficili qua, non lasciamo, non è truccato così. C'era un po' di petticello, ma il mare era bello, nulla, ha pigliato due, un tipo, mi lo vedi, poi ne ha preso uno grandetto, un tipo che era giù nelle rocce, sarà stato, diciamo, che croce, 700 grammi, dai, grande. Se non sei lui, il calamaro si porta, non è che rimane sempre tutto lì. Mi hanno detto che l'anno scorso ne hanno preso una marea lì, un bel chi 15, chi 18, chi 20. Ma come entra per la torre lì se ne vanno fuori? Ma per la torre non ce ne sono, però lo voglio qua. Che sembra, se con le mani già che ha fatto, non sai che sono interessati? No, sì, l'anno scorso c'erano, grazie c'erano. E si valevano pure per la torre. Guida, quest'anno neanche l'ho preso per la torre. Ma tu sentivi come predatori però? Vabbè, predatori barracuda, poi come si chiamano? Tanto a far culo, non mi viene il nome. Invece Serra. Vabbè, le spiego nella regione dove le dire, quella entra. Sì, vabbè, ma diciamo proprio le barracuda si facevano vedere perché saltava fuori dall'acqua. Non le vedi io come barracuda, Carlo? Oh, un panettiere che veniva lui mi ha preso da 18 piedi di spigola con il calabaro vivo. La funga tramontana lì. La fata si sta sulla calabaro. La traina però. Non so. Questo 18 kg, ha detto che a tira l'ha fatta 5 grammi, anche se c'avevano la canna di quelle con il mulinello elettrico. Siamo tira, tira quella cosa. 18 kg, detto che se l'hanno portata quasi così a vivo, poi con il coso l'hanno tirato. Poi si chiama con mezzo marinaia. Ma dove è? Ma se preoccupa il tuo pescato? È inviato, dimmelo tutto, non lo so a più postino. Ascolta a me, come riprendo ad andare a tutti? Va bene, lo scendiamo. Se ti porto io, così a me non mi sei più posto. Ma sapevi di aver partito il portatore? Era sì, l'ho cassettato. Che cazzo ci fa la cassetta? Ci andiamo assieme, ce ne siamo c'è la macchina, noi castighiamo a piedi. Sì, ma non è quello, Giovanni, non è quello il problema. Il problema è che si va come di carriera, capisci? Ma sta partire presto la stessa. Lo so. Non è che c'è un problema, se siamo in macchina, non so come siamo in macchina, è molto come se ci scendere mai. Io riparavo a piccare in moto, poi su donna, roba di freddo, io non ti dico, d'inferno. Oggi mi dato la seduzione di fare dei sigari. Ma lo faccio pittora, e che ho da fare tu, neanche a te, siamo fedi. Appesi, me li ghiacciati, ma devo dire ghiacciati, proprio ghiacciati. Arrivi a casa, ma sentivo anche fare pure in alto, guarda come stelle. E io che mi facevo il molo Cattaneo, grazie, dall'inizio sino alla fine, tutto a piedi. Va, e ci sono concorsi. Ma invece ci sentiva il molo Cattaneo? C'è dal faro che andava a mangi un agromo che pigliavo anch'io. Chiamati a Molo Cattaneo. Ehi. Come si chiama Molo Cattaneo? Buongiorno. Ecco, figurati che quando era anche il Molo Cattaneo siamo da Mariella e ne va a da più ci sono. Ehi, anche io. Andiamo praticamente l'entrata che c'è per andare al muro industriale adesso, però andavo invece che andare dove vanno loro, andavo dritto sulla sinistra e poi ci uscivo in punta dove c'è un primo letto che poi c'è la fine che finisce il mare di fuori. Punta! Praticamente tu vai all'entrata per andare al muro industriale, no? E subito all'entrata c'è sulla sinistra una strada, prendi quella strada lì a sinistra, vai in fondo e alla fine c'è un muretto che finisce tutto il molo, alla fine c'è un muro che finisce tutto il molo lì. E mettevo in punta proprio i paggeri che pigliavo di sala che mandi, via. Ne ho capito il cantiere, arrivederla. E adesso c'è il cantiere, prima non c'era. Ma io lì, però oggi che c'è la macchina, non ho mai fatto niente. No, lì ho pescato per pietra. È alla parte in fuori dove c'è solo gli scogli, non è con io, con la canna ha preso un grongo di 4,950 kg, con la canna lì. E già, non è che c'è anche lì, per questa qua, che abbiamo preso anche da qui. E ma questo qui era un nuovo video, la canna del principiante. Non è una mano, vai, anche io con la freccia della mano ne ho preso, non grossi grossi, ma ce ne ho preso. Vedi sì, ma non grossi come quello lì. Quello lì è un capo che va di assurdo. Comunque, questa è stata che sta morendo, come lì ce n'è un bel. Una bella quella, se come ogni tanto stare con la smacchetta, stava con la fase di Porto Nola, e vedo da prestazioni, non so che sono pure. Sono un altro. Ah, a chi maru io ho detto? Un bel riso buono. Non prendevo tempo, è pure che si riuscisse. Se mi devo dare a capo mi deve andare. Non è troppo in mano, no? No. Le metti così nel ciclo. Non so, una fucina che casca, però è anche un caso in realtà con un paio di fucine della situazione, che non è una prova, è perché quella lì è pericolosa, a me mi ha morsicato, sto guardando i denti, mi si è cansato un dito. Questa ti ho visto da morta, figura. Già, ma è su domone me ne ha scappato lo stupa, io so che sei stato fatto per farci. Cazzo, se attacca lo gommone ti faccia tutto. No, il domone non ce la fa, però se tu come ha fatto lo stupa, lo stupa, lo stupa, lo stupa, lo stupa, lo stupa. Che te, bisogna varare. Se non è io pure che la farete da capo. E invece un amico mio facendo pesca subacquea ha sparato un batacco di quelli grandi mi si è lanciato addosso, c'è una tuta da 5 mm, la multa. E mi ha spacciato la multa, ha detto se avessi avuto la multa fino a me avrebbe spacciato la cava. Mi si è lanciato addosso, con l'arpione infizzato. Ho capito, quella quando cammina è una piega. Mi si risolve. Ma sono freddo, vabbè, fai niente fa. Quanto è stato lo freddo? Ma con la rete? E te lo dico che hai chiamato. Come? Con la lente? Stavo facendo con la bolognese e ho preso una di quelle sorelle. E siamo andati la giornata. Allora è evidenza grossa per dire lo fu. Sì, mi si è dalla campata in sopra la bocca. C'era la gente tutti guardando. Già capito. Anche io avevo preso un pezzo di serra, però l'ho preso al lato della bocca e non me l'ha sbasciata la lente, non me l'ha fatta. Già, ci hanno disorientato un po', ma non perché, ci hanno tirato una lente a Giulietta, era bella. Sì, vabbè, la Giulietta non è che sia buona, sai, no? Vabbè che anche pezzo di serra, il barracuda, io li ho mangiati, ma sono asciutti come ti pesci. No, non è così, è se non la sorella la mangia perché la faccio libera, la di prestesse, prima che si rimane anche leggera. Quindi ti vedo lì con finale. Sì, si può mangiare, non è che non sarà un pesce di prima, è tipo zazzino. Se può avere la novità, dipende sempre dal condimento, il pesce, se può dire male, non si fa nulla. Lo so. Non lo so. È un po' fortuna se non sanno fare molto bene il pesce. Ma la vita è data. Che consiglio si può fare la guida? Stava dicendo come fare il comino, ma anche la guida è stato scherzo. Si è arrotto male, gli si è tutta le mani utilizzate. Ma c'è giusto. I capitoni no, le anguille sì, al suo capitone le fa un po' di senso, è grasso. Già, già prende le faccia arrosto, sono arrosto. Arrosto sì, ma al suo no? No, anche quel culo non prende più, si vede che è un pane, è grassante. Io so non me che non le mangio anguille, ci credo. No, è una cosa grassante, esatto. Non beh, che non li mangio. No, io sono buone, poi non c'hanno molte spine. Già che vale, ne metto un paio di nastri in qua. No, via. Mi dice che è bello, come non stai uscendo? Perché adesso dopo la città, non sono detto che dopo domani mi ricordo, capito? Ah, cavolo. Niente di grave. Quella mia là, la gran fatta è da operare. Non so cosa la c'era dall'ospedale. Dopo domani mi pulisco e non so se è finita. Raga, devi operare. C'è una cosa che mio amico mi ha operato da poco. Vieni. È già uscito dall'ospedale e tu esci. Appena me lo riprendo ricomincio a lavorare. Ah, è mia inguinale o strozzata? E' un inguinale di Parigi. Io ho lasciato una testa, adesso lo faccio, niente di qua. Ma cos'è molti sfurti fai? Stampa. Quello è? Mi bloccato la treta, ho alzato, dai, pensati. Secondo come lo prendi, se lo prendi male. Perché ti devi, per prenderlo ti devi inchinare, inocchiato quasi. Tu lo prendi, lo sollevi piano piano. Ci sono i metodi, a noi ce l'hanno spiegati quelli dell'antifortunistica, come prendere la roba. A me non ce l'hanno spiegato loro, però già me lo so perché io non so niente. Già lo so prendere, non so più. Poi non si possono sollevare più di 20 kg. 20 kg. Se sollevi più di 20 kg ti fai male, non ti paga l'infortunistica. Oh, adesso sono già un po' di semestre, non è troppo neanche. Per dire, noi le forme del formaggio, quello di grana, quello è grande, devono essere tagliate in due, se no non le possiamo sollevare, lo sai. io diciamo le ruote, quella che è girata. Ok. Quanto pesano quelle? 30 kg. Qui che le dovete rompere in due? Sì. Perché se no ti puoi anche rifiutare il suono armato. Beh, se hanno cambiato anche i cassi di azione, signor. Infatti. Tutta cosa a base di legge, non è che sia. Io ho fatto i corsi, ho fatto quello dell'HCP, antinfortunistica, primo soccorso, antincendio. Grazie sulla sicurezza? Sono corsi della sicurezza per la prevenzione. No, questo l'ho fatto la cosa, ho fatto niente, abbiamo fatto 4 ore. Io ci rifanno ripetere ogni anno. No, ogni anno, la fai almeno più con qualche variante, perché se non la si è andata anche così. Per qualche analista in casa, è stata anche la ragazzi. E ne ho fatto uno per quando cambiavano dalla linea al corso, arrivo. C'erano fatti quelli, ce l'ha fatto un ispettore della banca, ma per i saldi. Io ho fatto un altro con dei biologi per la roba scaduta, cioè questa roba qua che si moltiplicano i batteri, eccetera, eccetera. Ovunque ci sia odore, ricordate, ci sono sempre batteri. Poi anche il Google, c'è igiene sanità, insomma, ne abbiamo fatto parecchio. Per fatto. Sì, ma si ha anche corpo l'esame su questo? No, non esattamente. Quello che faccio io è un lavoro diverso, praticamente faccio le consegne nei ristoranti, gli asili, ci abbiamo gli appalti, no? Più sono personale fiducia. Sì, magari qualcosa che serve anche di gruppi, vi manca un prodotto che non li portano. E se ce l'abbiamo giù un magazzino glielo porto io. Ma che fa? Non è che dice? Per Paolo. Beh, forse sta facendo qualcosa. Tu a senso si anche? La faccio, le cuffie. Ah. Sento forte e chiaro. Non sto pensando che si sbagliano col visto e dalle vacche l'uccello. Che senso? Ehi, è l'operazione del dubbio, tu fa vedere. Non ho capito, dimmi per qua. Sto pensando che se sbagliano nel taglio col bisturi e vanno anche l'uccello, rimane senza l'uccello e poi ti tocca fare il lulù. Oh, che va, l'altra, quando ho fatto la destra mi ha danzato l'infermiera, non sai cosa mi dice, te lo puoi immaginare. Sì, ma questa volta sbagliano. Quindi ma una bombetta di erbato. Dove sei Giovanni? Medicina? Medicina generale? Caffa. Qui c'è l'amica mia. Adesso glielo dico io. Tanto bene Giovanni. Oh Giovanni, e poi quando esci da Napoli, 3-4 giorni, chiama la radio. Ciao belli belli. Hai Giovanna. Cazzo, così mi dovete chiamare Giovanna, non va bene? Ehi, inizia già il luglio, ci taglierò tutto. Cazzo, ma vuole che paesi, no? Cazzo, è più lindo, allai. Buona scelta. Hai capito Giovanni, non è la tira che vi covera, non è la tira c'è tu non con la mica via, perché la casa stessa è la cena. Dopo domani mattina ti ricoverano, come si chiama? Datemi pure il telefono. No, non è per la fonte, no, me lo fare un po'. Si chiama Lucia. E allora dico che sono amico tuo, vuol dire che non sbagliano. Ma bella, Pensa della frutta a te. Te lo sto chiedendo perché allora vado a farlo anch'io. Sì, ma lo sai che taglia anche lei. No, non vado più, no. Che appa, comunque. In bocca al lupo, speriamo che non sbagli quel mister. Sì, ma tu vai andare con una bombetta. Però vi fate ridere. E non era una stessa cosa. Ma tu? Veglia. Mi preparano a fare l'operazione come l'hanno fatta la destra, prima che datano, no? E poi si fanno il successo. È vero. Se 3-4 ore in bagno. Va, bisogna sopportarlo. Ma sì, se mi era già cosa mi ha detto, che cosa faceva, veniva al bagno di tutta la mia, chiedeva a vedere se avevo fatto tutto. E poi mi hanno detto che lì in chirurgia c'è il professore Froccio. Non mi sembra vero. Sì, quando si addormenta prima ti fa il lavoretto dietro e dopo l'avanti. Chiedi questa gente non li conosce. Cattari! Oh! Ma non ti sarà vero, il tuo figlio! Anzi, al biglione, vedi, su Bilugo che è Froscio, ha detto che prima mi battimentava gli andarisi e lo qui a Danazzi. Cattava Bilugo, ma voi tre signori con il passato puro! Anzi, era in biglia da buona! Gianni, ma tu quando sei andato a operarti così tale qua? Io grazie a Dio non sono mai stato operato. Sì, Gianni, scusate, operato. Ah, mi chiamo Gianna. Ah, è vero. Dalla schiena, la lombare sono stato operato. Sì, ma dalle subito cosa arrivava, qui la vittava, non mi riparava l'olio. Quello è un punto pericoloso stesso, Sì, ciao, ma vai. Sì, che non va a scherzare, perchetta. È stata una brutta avventura quella lì. Senti, ci va a fare, ma lo fa da Balai. Da Balai. Alla lombare. Questa Balai, hai detto. Lombare. Gappa. Vabbè. Lo già qua. Non dice le cuffie da fare a ordinare come fanno le donne. Certo, mi tocca già far fondo a Russia. Comunque, la corporazione chiamami che un guagno. Ah, non puoi voler partire, cazzo, che andava a piscare. Cazzo, ti dice, bici, non si fa, tu vedi, cazzo, questi bici hanno di fermi. Qua a casa ci coppa. Casa della vero. No, guarda che Natalina, tu ti vuoi una pompetta. Ehi, una pompetta va picchiata. Allora, qui c'ho ti stava. Tu non siete maliziosi che. Ma io so adesso che praticamente quando fanno l'operazione per la cosa, per l'ernia, castrano pure. Perché viene male a farla, la tolgono tutta. Oh, meno che mi devi andare a tenere figlia, perché io dovevo fare un dirungo, che io dovevo fare la ceretta. Quindi, poi devono arrasare a secco, vero, Giovanni? No, alla metà si rasa. E a secco, però nel senso senza bagnare. Ah, ma sì, è poco fa male. Cappagappa, io ce ne sono storie, diamole racconta con la meccanica di storie da ridere. Beh, lo sai già, la storia imbarazzante è quello che nel maneggiare determinate cose si può cadere anche che già sta, no? È imbarazzante, oddio, ma è una cosa naturale. Eh beh, loro sono tutti giorni, quindi non è che... una futinuta, no? Mi capite già le vici, giovani, di tutto. Ti conviene farti di tu i peli prima di andare, così non te ne fai. Sono un po' sottili, però... Che li facci tu, così non te ne lasciano loro. Giovani, quando ti tengo, più o meno? E quando andate la volta faccio una cosa 3-4 giorni. Ah, poca roba allora. E poi sei un mese alle passate. Ehi, vabbè, mi lascia respirare già. Mamma mia, lo buffo è un cazzo. E c'è la mamma Lucia, già la figlia buona, già. Ah, Giovanni. E come ti trovo, sei mio. Certo che sì, la prima cosa devo pensare agli amici. Sai cosa posso dire? Che magari tu che ne la dottoressa, sai com'è? Magari bianchinetti la sono per Arturia. Ma però con questi pensieri... Cresa da vacca e vacca. Orgogliosa. Gente nel deposito oggi. Volevo, grazie che lui stia a parlare di cose strane, no? Si intende, mamma mia. Poche fa. Questo qui non viene per un gabbiano. No, faccio cazzo qua. Già c'è uno che ride, aspetta adesso lo faccio. C'è uno che mi vicino, che è il marito di quella che lavora lì. Cazzo, se lo sente ridere qua, è troppo buffo. Come Ferrerino. Cazzo, guarda, è un piscio. Un aino, pare. Se vuoi conoscere, ridi, eh? Ridi, eh? C'è un aspirapolvere. Dove ce n'è uno che vede così? Come qui, oh. Chi c'è una persona? Guarda, aspetta, vado qua, vado, la mano davanti. No. Vede veramente così. Ho letto, vero? No, lo so che c'è una poletta, è un altro che conosco. Anche a poletta vede per un modo strano. Questo già si ammetta di Paoletto, se ammetti di Paoletto Falcone, eh? Come sei? No, a Giovanni. Allora vuoi sentire la voce di Falcone? Te l'ha innamorato di Giovanni. Ehi, a cannoncino. Faccela sentire Giovanni. Cazzo, ti vergogna, guarda un po', uguale lì. Sì, già ho capito chi è. Guarda, quando l'ho sentito facciamo le cose lui. E chi è Luca che lo fa uguale? Taffa. Luca, fammela sentire. Beh, Giovanni, credo che lo io. No, tu Luca, tu no, un altro Luca. Ah. Luca, c'è la messa qua. Manca. Luca! Non fare il figlio, vieni qua! Vieni qua! Io facci sentire! Che cosa sul microfono? Ti lo fa bene, bene, a mio riserva! Non so la cosa da tanto tanto in bocca! Cosa si va con niente? Perché io... sto vendendo un corpo di interno. E mi dico il tuo padre a pure. A Giovanni mi viene a fare sentire il CD di Falcone. Anch'io ce l'ho. Sì. Un MP3 hanno fatto, io mi ha fatto sentire Luca che ha fatto un bel ridicato. Non va, ma hai sentito là? No, l'MP3 no. Hanno messo tutte le patate sue quando si incazzava, un bel casino. E se la metti brutta coglione! Cosa faceva ridere? E anche non so bene cosa rimane nei cibi. Volevo usare visto alla cena che hanno messo il Guttax, era una roba da mangiare. E si è cagato in Nantes. Quella è una tarina che aveva fatto, voleva la tarina. E allora? E in Italia la faccio la crema, la marmellata, la tattiva nelle tartine. E un barretto di sombrini, fila di blu, sentavo nella cabina. La cabina toccava il cappello, si richiudeva le due per faccia, buffa. Stiamo stando a fumare della mamma. Tornavo a andare, buona, su cuore, palacco, no, lo stiamo una voce. No, una banda. E la volta che mi avevano fatto i lacci dalle scarpe, gli hanno legato il pantalone per dire che era cagato addosso. Chi è dell'Oluco? Era voce che aveva fatto un fantasma. L'altro appuntamento di notte, a sessione in vecchia, sono vestiti con le lenzuole bianche, non i bicicletti, non toccavano i ponti a Lupo. Quali fuga ha fatto? Luca, secondo me la piccolella gliela ha fatta tuo fratello, no? Uccidetemi. Cadavra gli altri. Sugli altri. Ma perché ne combina con il piccolo? Poi diceva nome e cognome, numero di telefono, frequenza. Ma in realtà l'aveva fatto. Non lo so per far. Ma non lo sapevi tu. Non lo so per quale motivo. E c'era dietro l'antenna che pure avete portato lì sta cena. Sì, ma se rifanno domani io ti curo la corretta da cui ti cura la macchina. Era lei la registrazione. Smorta candela. Tu mi... Parita. oppure sex dance? No, no, questo si chiama smorta candela. No. Ciao Pacchi. Sex dance vuol dire danza del sesso. Qua, è un'altra capricuria della sede. Ecco. Cos'era anche la Repubblica? Tutta la macchina, l'ammortizzatore sta aspettando. E le colonnelle di Siena in lei. Cazzo molto grande. Beh, ce l'avevo doppio, ho visto. Ancora, ah, che bello. attimo. Sì. Io sono arrivato. Io ho fatto che stai. No, ma non li ho avuto. Oh, già, ma fratello, non ho usato la neve di qua, perché? No, non ne ho mai usato. E le mono per essere chiusi, mi spiace. Vero. Vero, sono sceso anche qua in un po' di siamo presi qui. Ma intero? Sì, già, intero. Magari anche le telline a flatta volo, per le orate. Basta che le provate, no, non so se non mai sento bene. Arriva a piatto. Sì. Già si è cavanata. Dimmi. Ci risentiamo domani. Buonanotte.